24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Parliamo di economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Deborah, ben ritrovata. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, inflazione, un tema che ricorre spesso, una parola che insomma quegli italiani hanno fatto l'abitudine da anni. Cerchiamo di spiegare oggi qualcosa in più su questo termine. Facciamo una piccola lezione di economia, alzo il velo anche su un dato storico, mi viene quasi da ridere perché oggi i giornali riportano, relativamente alla statistica che è stata comunicata ieri dall'Istat, che l'inflazione in questo momento nel nostro paese è ai minimi dal 1969, quindi l'anno lo posso svelare così magari se poi ci fai anche due battute in cui sono nata io, l'inflazione su questi livelli insomma non si vedeva da ben 40 anni. E allora, quali sono le tendenze? In realtà poi ci chiediamo, i prezzi che scendono così tanto sono sempre una buona notizia per l'economia in generale, sono sicuramente una buona notizia per i consumatori che magari fanno la spesa un po' più serenamente, ma quale circuito anche non propriamente virtuoso si innesca? Buongiorno a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. A tutti. Buongiorno Luca, volevo anche spiegare il motivo per cui adesso io sentirete a Luca Paolazzi del tu molto serenamente, un ex collega del Sole 24 Ore, quindi ci conosciamo da lunga data, da qualche anno a questo impegno in Confindustria. Dicevamo, oggi facciamo una piccola lezione di economia, parliamo delle tendenze dell'inflazione nel nostro paese ma anche in Europa, perché ieri anche Eurostat ha fatto sapere che nell'Eurozona l'inflazione si colloca a livelli storicamente molto bassi, allo 0,6%. Parliamo però prima di tutto, Luca, della situazione italiana. In marzo siamo all'1,2%, dall'1,6% di febbraio, e abbiamo detto si tratta del dato più basso dal 1969. Allora, tra l'altro eravamo, ricordiamo ancora, la scorsa estate intorno al 4%, quindi abbiamo avuto una discesa in questi mesi estremamente forte, molto molto netta, provocata solo ed esclusivamente dalla forte discesa del prezzo del petrolio, Luca? Beh, prima di rispondere a questa domanda continuerei a sottolineare il fatto che parliamo di ancora aumenti dei prezzi, per fortuna, cioè hai detto poco fa più 1,2%, spesso si fa confusione fra il livello dei prezzi e il loro andamento, e quindi si dice calano i prezzi quando invece cala il loro aumento, quindi decelera l'inflazione, ma parliamo sempre di aumenti dei prezzi. Rispondendo alla tua domanda, sicuramente la componente principale è il forte calo del prezzo del petrolio e dell'energia in generale, anche le bollette elettriche sono state ridotte ripetutamente e continueranno a essere tagliate, anche quelle del gas, e questo fa specchio a quello che è successo invece l'anno scorso, quando la bolletta petrolifera per tutte le nazioni aumentava in modo vertiginoso. A dimostrazione del fatto che quella era una situazione non sostenibile, quella di quel forte aumento del prezzo del petrolio, e anche del fatto che l'accelerazione dei prezzi, io non la chiamerei veramente inflazione, perché inflazione significa aumento di tutti i prezzi e anche di tutti i prezzi di tutti i fattori, quindi non solo dei beni che acquistiamo, ma anche per esempio le retribuzioni, i redditi dei lavoratori autonomi e così via. L'anno scorso eravamo in presenza di un'accelerazione di alcuni prezzi, i prezzi dell'energia e i prezzi degli alimentari, altro fattore importante, sono scesi i prezzi delle materie prime alimentari, che anche questi si erano gonfiati molto. Quindi più che essere in presenza di un pericolo di riduzione dei prezzi, siamo in presenza di un aggiustamento di segno contrario rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso riguardo alcuni prezzi relativi, cioè i prezzi dell'energia e i prezzi alimentari. Aggiustamento in senso contrario, Luca, dicevi, un aggiustamento che comunque ha del vantaggioso in termini, dicevamo, di possibilità un po' più serena in questo momento per fare la spesa, per le famiglie, insomma diamo queste indicazioni molto pratiche, ma in termini generali per l'economia, quando una riduzione di questo tipo, un ridimensionamento di questo tipo comincia ad essere non propriamente una buona notizia per l'economia in generale? Ma in generale l'economia vive bene quando i prezzi sono stabili, quindi quando non crescono in un modo eccessivo e quando anche non si riducono. in entrambi i casi ci sono dei danni, perché nel primo caso, cioè quando crescono, c'è erosione del potere d'acquisto della moneta, significa che le persone che hanno meno possibilità di difendersi attraverso una negoziazione del proprio reddito vengono di solito impoverite e sono di solito le persone più deboli nella società. Viceversa, quando i prezzi scendono c'è il rischio di fallimento di imprese, perché i debiti, i loro debiti non sono più sostenibili, e quindi l'economia si avvita in una spirale molto pericolosa di depressione. In entrambi i casi, l'inflazione e la deflazione, forse addirittura la deflazione più dell'inflazione, sono casi da evitare, quindi l'economia sta bene quando i prezzi sono stabili, che significa che non i prezzi devono stare tutti fermi, perché i prezzi sono dei segnali, ci dicono quando un determinato bene è scarso e quando invece è abbondante, quindi orientano le nostre scelte di acquisto, e dunque è opportuno che ci sia una flessibilità dei prezzi, un movimento dei prezzi, ma dei prezzi, alcuni prezzi salgono e altri scendono. D'altronde, anche se guardiamo anche persino l'anno scorso, quando avevamo questa accelerazione dei prezzi, osservavamo alcuni prezzi che scendevano, per esempio quelli delle comunicazioni, che continuano a scendere peraltro. Esattamente, e questo è il beneficio della concorrenza e dell'innovazione tecnologica. Ecco, tornando a fare un po' di esame, come dire, geografico, anche il Sole 24 Ore lo rileva questa mattina, fra le città capoluogo di regione gli aumenti tendenziali più elevati si sono verificati a Napoli, a Trieste e Genova, mentre quelli più moderati hanno riguardato Aosta, Trento, Venezia, Palermo e Cagliari. C'è un altro confronto interessante che vale la pena fare invece tra il dato che rileva il nostro istituto di statistica, che è l'Istat, e quello che invece rileva Eurostat, l'istituto di statistica europeo, secondo il quale invece in Italia ha un'inflazione all'1,1% in marzo. Come mai c'è questa differenza, Luca? È panieri diversi? Sì, leggermente diversi. Per esempio Eurostat non prende in considerazione i pronostici, e quindi questo viene escluso. I pronostici, per esempio, significa il Totocalcio, il Superenalotto, eccetera, e considera diversamente, per esempio, la spesa sanitaria, perché da noi è la spesa effettivamente pagata dalle famiglie. Per quanto riguarda Eurostat invece prende in considerazione tutto il costo del medicinale, anche la parte che non è pagata direttamente dalle famiglie, quindi c'è, diciamo, questa piccola differenza, ma generalmente le tendenze sono analoghe, non va evidenziata o sottolineata in particolare. Invece è più interessante notare, secondo me, le differenze fra le nazioni europee, in particolare all'interno dell'Unione Monetaria Europea. Noi dal 99 apparteniamo a questa area, abbiamo messo insieme le monete nazionali, e l'inflazione dovrebbe, essendo un prezzo della moneta, come dicevamo prima, perché è lo specchio del potere d'acquisto della moneta, deve essere simile fra queste nazioni, altrimenti si mettono in moto aggiustamenti che portano, laddove c'è troppa inflazione rispetto agli altri paesi, a una riduzione dell'occupazione, a una perdita di reddito. E questo è il motivo, peraltro, per cui anche la nostra Banca Centrale Europea, nella sua politica monetaria, nella politica di gestione dei tassi di interesse, insiste molto sul suo mandato di mantenimento dell'inflazione europea al 2%. Un'ultima considerazione, Luca, poi ti lasciamo, la facciamo ancora relativamente all'Italia. Ci sono ancora le consuete lamentele, analizzando i dati dell'inflazione delle associazioni dei consumatori, che continuano a sostenere che comunque, anche alla luce dei dati divulgati ieri, il peso sulle famiglie di questa situazione continua ad essere molto forte. Cioè c'è il tema ancora di un'inflazione percepita in Italia che è molto differente rispetto a quella reale. Perché? Ma in realtà non è solo una situazione italiana, questa è qualcosa che si riferisce a tutte le nazioni dove è stato introdotto l'euro. Basta guardare i dati rilevati nelle indagini presso le famiglie, presso i consumatori, riguardo appunto alla percezione dell'aumento dei prezzi negli ultimi 12 mesi. Peraltro il divario fra la percezione delle famiglie e la dinamica effettiva si è molto ristretto, siamo tornati a una situazione quasi normale. Questo dipende dal fatto che abbiamo ancora in mente, o pensiamo in realtà di avere in mente, i prezzi in lire, ma basterebbe cercare tutti noi di ricordarci un solo prezzo, quello dei biglietti del cinema, e scoprire poi, guardando i giornali dell'epoca, che in realtà abbiamo una falsa percezione di quel prezzo, perché la nostra memoria è stata veramente cancellata. Luca, grazie molte per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a tutti. tutti. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Alessandro, oggi è Salvadanaio, parlo di mercati, faccio l'esame delle trimestrali delle banche, quindi già che ti ho rubato 30 secondi ti ridò subito il microfono. Benissimo. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Sul referendum elettorale la Lega era pronta a far cadere il governo, dice Berlusconi, giustificando così la scelta di non accorpare la consultazione con le europee al 7 giugno. Ma ora si profila un'altra possibilità, quella del rinvio del referendum di un anno. Il governo si riunisce oggi per discutere del decreto per l'emergenza terremoto che dovrebbe approdare nel prossimo Consiglio dei Ministri. Gli strumenti preannunciati sono un aiuto statale del 33% agli aquilani che vorranno ricostruire la casa e un mutuo a tasso agevolato fino al 50% della spesa. Intanto un terremoto ha colpito anche l'Afghanistan questa mattina vicino alla frontiera con il Pakistan. Si parla al momento di almeno 22 morti. Vauro non c'è, ma le sue vignette sì. Così ieri Michele Santoro ha sfidato ad anno zero il veto posto dal direttore generale della RAI, Mauro Masi, alla presenza del vignettista sospeso dopo la puntata di giovedì scorso. E vi ricordo che di questo tema parlerà Giuliano Ferrara dalle 9. Infine il calcio, non ce l'ha fatta l'Udinese che non è andata oltre il 3-3 col Werder Bremen ed è stata eliminata dalla Coppa UEFA. L'andata finì 3-1 per i tedeschi, l'Udinese era l'ultima italiana nelle coppe europee. E allora le 8:33 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Parliamo dell'episodio avvenuto di cronaca, avvenuto a Cinisello Balsamo, provincia di Milano. Un gioielliere ha reagito a un tentativo di rapina sparando e ferendo gravemente il rapinatore. Ogni qualvolta avviene un episodio del genere si riapre il dibattito sulla legittima difesa, su cosa sia legittima difesa, su cosa non lo sia. Libero, per esempio, titola già oggi in prima pagina: ora nessuno osi condannare l'orefice che ha sparato al ladro. Ovviamente è importante la ricostruzione dei fatti, la dinamica in questi casi. Forse la migliore la troverete sul giornale Luca Fazzo. Per quello che si sa al momento, il malvivente entra con la scusa di voler vedere un orologio e poi mostra una pistola che poi si scoprirà essere una pistola a scacciacani e inizia una colluttazione, inizia a colpire il gioielliere Remigio Radolli. Scrive Fazzo: nel negozio scoppia una rissa furibonda. Il bandito è alto, una spanna meno del gioielliere, ma picchia come un dannato. Radolli viene colpito con violenza più volte, ma non molla, riesce a raggiungere la sua Smith & Wesson calibro 22 e a quel punto svuota il tamburo del revolver. 7 colpi, 3 a bersaglio, 2 al basso ventre e 1 al collo. I due complici che erano fuori intanto si danno alla fuga. E poi c'è quella foto con il gioielliere, l'avrete vista sui giornali, l'avrete vista al telegiornale, visibilmente colpito, un occhio pesto, sanguinante, segno evidentemente di una colluttazione. Io saluto il professor Vittorio Grevi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Lei insegna procedura penale a Pavia, spesso scrive anche sul Corriere della Sera anche di questi temi. Ovviamente la ricostruzione andrà accertata. Al momento il gioielliere non è indagato. Che cosa è legittima difesa e che cosa no? Innanzitutto ce lo spieghi. Ma in linea generale legittima difesa, cioè comporta la non punibilità di chi commette un fatto che altrimenti sarebbe reato, tutte le volte in cui questo, l'autore del fatto agisce per la necessità di difendere un diritto proprio contro, dice la legge, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Ma poi aggiunge il codice penale, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Ecco, e su questo concetto di proporzione della difesa rispetto all'offesa di solito, come dire, si incentrano le polemiche e le discussioni. Certo, ci sono ovviamente, ci sarà una ricostruzione da fare. Per esempio, quella foto, cioè come si presenta il gioielliere visibilmente colpito, sanguinante, un occhio pesto, è un qualcosa che potrà portare nel caso di un'eventuale indagine, nel caso di un eventuale addirittura processo, potrà portare l'avvocato difensore a dire: guardate come effettivamente era stato colpito. Ma direi direi di sì, vista soprattutto nel contesto della ricostruzione dei fatti, così come l'ha descritta lei prima, perché poi il codice penale prosegue, in virtù di una legge approvata 3 anni fa, mi pare nel 96, prosegue dicendo che questo concetto di proporzione della difesa rispetto all'offesa, che è fondamentale perché scatti la legittima difesa, quando si tratti di situazioni all'interno del domicilio o di altri luoghi, tipo anche attività commerciali, per esempio un negozio, e taluno si sia introdotto illegittimamente in questo luogo, in questo caso la difesa è proporzionata all'offesa, anche se colui che è stato aggredito usa delle armi a una duplice condizione, o per difendere la propria incolumità, e mi pare che questo possa essere il nostro caso, o anche per difendere i beni propri altrui, purché però in questo caso vi sia pericolo nell'aggressione e non vi sia ancora desistenza. Se uno spara a un rapinatore che sta già fuggendo con la refurtiva, certamente non c'è legittima difesa. Ecco, questo è il caso infatti che spesso viene citato, cioè se c'è desistenza in quel momento, aggredire non è più legittima difesa. Sì, ma perché non c'è proporzione fra la difesa e l'offesa. Non c'è questo concetto di mentre proporzione. Se uno spara nel momento in cui viene aggredito, e come in questo caso l'aggressione è cominciata prima, quindi c'è stato, a quanto si dice, il colpo in testa con la pistola o con altro oggetto contundente, e l'aggredito spara per difendersi, secondo me ci sono gli estremi della legittima difesa. C'è l'altro episodio che sempre Luca Fazzo sul giornale poi ricorda, i 7 colpi, cioè il fatto di avere sparato 7 volte, potrebbe anche questo in qualche modo entrare nelle considerazioni? Beh, certo, in questo, la reazione certamente è stata una reazione forte, al di là dell'aggressione che è avvenuta con un oggetto contundente, con una pistola, adesso non importa se fosse una pistola giocattolo o no, ma in questo caso conta molto anche l'emotività del momento, insomma, e credo che la magistratura debba valutare questa particolare situazione. In ogni caso, per dirla tutta, nell'ipotesi in cui ci fosse una reazione sproporzionata rispetto all'aggressione, c'è sempre la via di scampo eventualmente dell'eccesso colposo nella legittima difesa. Tra l'altro ci sono stati vari episodi, ci sono stati diversi processi, alcuni si sono anche conclusi con delle condanne poi nei confronti di persone che hanno reagito. Io vorrei salutare anche con noi Giuseppe Maiocchi. Maiocchi, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Lei è gioielliere di Milano che in via Ripamonti subì una rapina, ci fu una reazione sua e di suo figlio, in quel momento vi trovavate, ci fu anche una reazione che portò all'uccisione in quel caso della persona che entrò per una rapina. Lei tra l'altro ha subito anche una condanna, se non sbaglio? Sì, io sono stato condannato per eccesso colposo di legittima difesa. A quanto? A 1 mese di carcere. Cioè di carcere, la condanna è simbolica in quel caso perché c'è, poi effettivamente non va in carcere. Senta, le chiedo, lei in varie interviste ha sempre detto mi vengono a parlare del diritto di scappare, cioè questo concetto che il codice appunto prevede, la proporzionalità, il classico caso di scuola in cui se una persona aggredisce ma poi sta scappando non si può considerare legittima difesa quella di reagire in questo caso, ma un eccesso di legittima difesa. Lei che ne pensa? Da persona che ha vissuto un momento come quello che ha vissuto ieri Radolfi. Nel nostro caso noi avevamo intimato a queste persone di fermarsi prima di vedere delle azioni che stavano commettendo, che ci hanno spinto a ritenere di essere in pericolo, e quindi abbiamo fatto fuoco. Tenga presente che noi abbiamo fatto fuoco sparando a 60 centimetri, 1,20 m dalla persona seduta in macchina, solo perché desistesse, mentre questa persona ha continuato e ci ha indotto a pensare che stava cercando un'arma. Questo è il nostro caso. Questo è il caso processuale, diciamo, ma è stato affrontato da un tribunale. Ma le chiedo perché lei contesta in qualche modo, o meglio, sembrava quasi contestare questa norma del codice che prevede la desistenza e dunque... No, ma allora io non ritengo giusto che una persona possa venire, minacciarti con la pistola, picchiarti e poi abbia il diritto di fuga. A un certo momento dice, ma ormai aveva preso, aveva il diritto di fuga. Ma quale diritto poteva avere allora la persona che era lì a lavorare e che è stata picchiata, eccetera? Evidentemente non c'è proporzione nelle due cose. l'aggredito è trattato peggio di quello che aggredisce. Lei vede in questo la sproporzione della legge, per usare la stessa parola, cioè che addirittura lei passa cioè che la persona che l'aggredisce passa per essere la vittima di tutto? A un certo momento la persona che è stata aggredita non fugge, non scappa, è qui presente perché non ha nessun motivo per scappare. A un certo momento la legge che esiste compie tutti i passi, quelli che sono i famosi atti dovuti, ma questi atti dovuti sono cose sproporzionate per quello che io penso. Io le posso chiedere brutalmente se ci sono rimorsi, perché comunque una vita umana è una vita umana. Io non voglio giudicare niente, perché guardi, tanto come puoi immaginare, anche i messaggi che arrivano sono tantissimi, di solidarietà, di dire ha fatto bene, eccetera. No, ma io penso che nessuno di noi, io continuo a dirlo, nessuno di noi è nato per uccidere un'altra persona. I rimorsi resteranno tutta la vita. Tutta la vita si penserà che si poteva fare qualche cos'altro rispetto a quello che si è fatto, però il senno di poi purtroppo non dà la vita a questo ragazzo, nel mio caso, e non darà possibilità ad altri di cambiare quello che hanno fatto. Però io continuo a ritenere che in quel momento per me era una situazione di pericolo, e se, quando mi chiedono se lo rifarei, dico, in una situazione di pericolo io ritengo che sia un diritto di una persona difendersi, questo è il mio pensiero. Professor Grevi, quello che ci dice Maiocchi, cioè addirittura pare che ci sia un diritto alla fuga da parte di una persona che viene lì picchiandoti, minacciando la tua vita, portandoti via le tue cose, entrandoti in un esercizio commerciale, e poi la legge gli dà questo diritto di fuga con questa desistenza, lei che replica? Ma non so, io penso che non esiste né in cielo né in terra questo diritto di fuga, certamente non esiste nella legge, non esiste nel codice, è adesso un'espressione colorita che usa il signor Maiocchi, ma la situazione mi pare molto lineare. Legittima difesa è un'extrema ratio, cioè non si punisce una persona che commette un fatto che altrimenti sarebbe reato, cioè in questo caso sparare contro un'altra persona, non la si punisce se c'è in atto una situazione che giustifica la reazione. La situazione in questo caso è quella dell'aggressione. Se l'aggressione non è più in atto, se l'aggressione viene meno perché la persona si è data alla fuga, non è che questa abbia il diritto di darsi la fuga, diciamo, ha il diritto di non essere ucciso mentre si dà la fuga, che è una cosa un po' diversa. Sì, è l'espressione colorita che però forse esemplificava il fatto che lo Stato protegge più in qualche modo, o la legge è molto garantista nei confronti di chi sta commettendo un reato molto grave. Ecco. Beh, no, no, non è che lo Stato protegga chi, perché quello sarà evidentemente colpito per il reato, certo, che ha commesso, cioè la rapina. Lo Stato semplicemente dice, tu puoi reagire e reagire in un certo modo solo quando c'è un pericolo attuale di aggressione nei tuoi confronti. Quando il pericolo è venuto meno, e il giudice dovrà valutare caso per caso quando il pericolo sia venuto meno, però la legge dice, se vi è desistenza non c'è più pericolo, beh, a questo punto viene meno la causa di giustificazione, la causa di non punibilità. Io volevo concludere, signor Maiocchi, ma ho letto oggi sui giornali questa mattina, che non vorrei chiedere una conferma, lei è una smentita, che la Lega sta pensando di candidarla. Sì, ed effettivamente penso di accettare questa candidatura. Cioè lei si candida per la Lega a che cosa? Alle europee? No, alle provinciali di Milano. Alle provinciali di Milano. Le posso chiedere perché? Cioè perché la Lega le è stata vicino? Perché dopo questa, evidentemente dopo questa vicenda, oppure prima? Le mie idee sono legate alla Lega, in questo caso da moltissimi anni, quindi lo stesso, tanti pensieri comuni, e poi naturalmente la vicinanza della Lega in questo periodo. A parte quello, io ritengo che si possa fare molto per la sicurezza e sulla prevenzione. Evidentemente, diciamo che in questo momento sulla prevenzione viene lasciato molto al caso. Si lascia la presenza di certe persone che non lavorano, che quindi per poter vivere comodamente devono commettere reati perché non possono fare diversamente. E volevo solo rispondere un attimo all'avvocato. E guardi che la frase che avevano il diritto di fuggire non è una frase mia, è una frase sentita in un processo da un pubblico ministero, il quale proprio questo pubblico ministero diceva avevano già commesso tutto quello che dovevano fare e a questo punto cercavano di fuggire. Ma al suo processo? Al mio processo. Il processo Petrali, forse? Esatto. che è un tabaccaio anche, che peraltro ho letto anche lui forse si candida con la Lega. So che voi siete amici, non so se sì, siamo diventati amici, ci siamo trovati varie volte in congressi per la sicurezza eccetera, e a questo punto dopo 4 o 5 anni di frequenza siamo diventati abbastanza amici. E sa se anche lui ci può confermare per lui se anche lui si candida? Sì. Lui tra l'altro si era già candidato alle elezioni comunali nel 2006 e continuerà la sua attività dentro politica nella Lega. Va bene, io vi ringrazio, mi devo fermare qui, ringrazio sia il professor Vittorio Grevi che insegna procedura penale a Pavia e il signor Giuseppe Maiocchi. L'ultima parte di 24 Mattino. A Mondo in provincia di Cuneo qualche mese fa si presenta un immigrato che è irregolare con la fidanzata rumena per presentare gli atti per sposarsi. Presentano tutti i documenti per il matrimonio, il certificato di residenza per lei, l'autorizzazione dell'ambasciata a contrarre matrimonio per lui, fanno tutte le procedure. Arrivano per il matrimonio e si presentano i carabinieri, perché il sospetto è che fosse un matrimonio di comodo per ottenere una cittadinanza. Effettivamente l'immigrato è irregolare. A questo punto voglio salutare il sindaco di Mondovì, Stefano Viglione. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Giunta di centrodestra, lei è del PDL. Sì. Allora, è irregolare effettivamente, però che succede? Che questo immigrato fa un ricorso al giudice di pace, come spesso accade. Ma diciamo questo, il soggetto si è presentato presso il signor Sportelli e il sindaco, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto per norma a sincerarsi del fatto che il cittadino straniero disponga di un permesso di soggiorno per permanere sul territorio nazionale, e quindi all'atto della presentazione della certificazione utile al matrimonio noi abbiamo evidenziato che il soggetto era clandestino, segnalato di fatto alle forze dell'ordine, le quali, fatte le verifiche, hanno emesso un decreto di espulsione a tutti gli effetti. Solo che cosa succede? Lui ha fatto ricorso al giudice di pace, come accade, il giudice di pace ha fatto una sospensiva e ha fissato al 28 aprile un'udienza per sentire le parti, no? Per capire come ha congelato l'intimazione ad abbandonare il territorio da parte del questore, ed è venuto a sollecitare nuovamente l'ente a che venisse sposato, perché ciò evidentemente era in grado di sanare o di regolarizzare la sua posizione in Italia. Ecco, spieghiamo questo, perché qui fino a questo punto è una storia abbastanza comune. Come avviene? Un immigrato, controllati i documenti, clandestino, certo. È venuto il decreto di espulsione, ricorso al giudice di pace che fissa il 28 aprile. Solo che c'è un'altra data, il 30 aprile, due giorni dopo, lei in qualità di sindaco, entro quella data, siccome sono state fatte tutte le pubblicazioni in regola per il matrimonio, lei entro quella data è obbligato dalla legge a sposare le due persone che si sono presentate. Senza ombra di dubbio, nel senso che noi siamo obbligati entro 30 giorni dalla richiesta, una volta che i richiedenti abbiano assolto tutti i requisiti formali, quindi inclusa la pubblicazione di matrimonio, ma dal momento stesso in cui ci viene avanzata la richiesta, noi siamo tenuti entro 30 giorni come ufficiali di stato civile a celebrare le nozze tra le due persone, e quindi di conseguenza, nonostante vi sia pendente potenzialmente un'espulsione dal territorio italiano del soggetto, noi siamo comunque obbligati a sposarli e quindi a consentirgli di contrarre il matrimonio. È questo che io dico, cioè che lui sicuramente ha violato la legge essendo irregolare, ma a rischiare di violare la legge è lei, perché se lei entro il 30 aprile non li sposa in qualità di sindaco, che cosa succede? Incorre in quale reato? Viene. Ma io il reato preciso non lo so, ma sono sicuro che sono passibile di denuncia, perché di fatto andrei a omettere un atto d'ufficio, che è quello appunto di assolvere in qualità di ufficiale di stato civile al matrimonio. Quindi di fatto vi è da una parte una legge che impone di denunciare i clandestini e un'altra che dà essi la facoltà di sposarsi con un cittadino italiano o comunitario e acquisire così a propria volta la cittadinanza italiana. Perché sono quei due giorni che ballano, visto che il 28 ci sarà l'udienza al giudice di pace, ma sappiamo come va la giustizia, basta fare un rinvio, chiedere un rinvio di qualche giorno, arriva il 30 aprile e lei è obbligato a sposarlo. Ovviamente sposandosi con una cittadina rumena, dunque comunitaria, quel cittadino che voi avete scoperto essere irregolare oggi acquisirebbe il diritto di cittadinanza, insomma, sanerebbe la sua posizione. Quindi io non posso rifiutarmi dal contrarre matrimonio a questi due soggetti, pena evidentemente di avere una denuncia in tal senso, tant'è che proprio, guardi, nella giornata di ieri l'avvocato che tiene parte di questo soggetto mi ha intimato di, come dire, celebrare il matrimonio in tempi brevi, evidentemente, cioè, per poter, sì, faccia in fretta, sindaco, perché esatto, almeno esatto, questa sostanza. Quindi è evidente che comunque la richiesta è strumentale ad ottenere, come di una regolarizzazione nel nostro paese, il che lascia davvero molto perplessi. Quindi il matrimonio diviene strumento per il raggiungimento di finalità diverse rispetto a quelle dell'istituto del matrimonio. No, sindaco, io sorrido anche un po', effettivamente, però il problema, diciamo, che da questa storia si evince un problema un po' più complicato e più serio, quello dei matrimoni di comodo, spesso ce ne sono, quello anche dei matrimoni nei quali si è scoperto che c'era qualcosa che non andava ed è stata un'irruzione dei carabinieri per posizioni, certo, poi da chiarire. Senta, le chiedo, il suo che cos'è? Uno spirito di giustizia, uno spirito, è un tema molto caldo quello di cui stiamo parlando oggi, certo, nel paese. Ma guardi, io dico semplicemente, io svolgo intensamente, come tanti miei colleghi, il ruolo del sindaco, e trovarci diversi di fronte a queste situazioni, per alcuni versi anche imbarazzanti, rende il nostro operare ancora più complicato e difficile, e poi anche difficile spiegarlo verso l'esterno, al cittadino che non comprende perché il sindaco si è prestato a sposare due soggetti che evidentemente hanno anche come finalità strumentale, cioè, attenzione, non entro nel merito sull'autenticità della volontà dei due soggetti di sposarsi e che quindi vi sia, come dire, un rapporto affettivo, però è indubbio che comunque il matrimonio in questo caso diviene strumento per raggiungimento di finalità altre. Allora dico, io credo che, come dire, il sindaco debba poter rispondere alla comunità, come dire, che l'ha eletto, che l'ha portato a questo ruolo, dicendo, guardate, io ho denunciato un fatto, mi trovo a dover assicurare l'adempimento di norme, ma nel contempo, ahimè, sono tenuto a regolarizzare. Allora dico, io l'appello che faccio è evidente, è chiaro, questa lacuna normativa, questa vocatio legis venga in qualche modo colmata, qualcheduno provveda a livello parlamentare, tant'è che oggi si sta parlando del decreto sicurezza che è in discussione in aula, mi risulta, in questi, sì, giorni a Roma. Allora si inserisca, come dire, all'interno di questo decreto, come dire, norme utili a sanare questa situazione. Ma perché il tema, un altro tema è questo, cioè quando un immigrato deve sposarsi, ieri lo spiegava anche Carlo Rimini sulla Stampa, quando deve sposarsi non deve produrre per esempio il certificato che dimostri che sia regola, deve produrre altri certificati, per esempio l'autorizzazione a sposarsi. Questo è fatto, cioè da una parte il fatto che il sindaco pubblico ufficiale deve verificare e segnalare le autorità competenti eventuali soggetti clandestini sul territorio non ha nulla a che vedere con la documentazione che rappresentano i requisiti per l'accesso al matrimonio. Quindi di conseguenza sono due, come dire, ambiti radicalmente separati e divisi e che non si incrociano. Quindi io sono tenuto a procedere con il matrimonio perché tra i requisiti non vi è quello di essere regolarmente in Italia, quindi diciamo un clandestino non dovrebbe essere in questo paese, ma comunque viene da noi e ci chiede di sposarsi. E noi non possiamo fare nulla, perché, come dire, tutto quello che riguarda l'espulsione del medesimo o comunque il fatto che lo stesso non è regolare è ininfluente ai fini del matrimonio. E che succede, sindaco? Cioè, che via d'uscita lei prevede? Perché adesso il 28 aprile, insomma, li sposerà? Credo, ahimè, che via d'uscita, per quanto mi concerne, non ve ne siano. Cioè, lei deve sposarli, insomma. Certo, per forza. Io sono assolutamente obbligato, nel pieno rispetto della normativa, a sposarli entro quella decorrenza di 30 giorni dalla data della richiesta. Quindi io quello che dico è, come dire, si provvede una norma, provo a fare una proposta, seppure io non sia assolutamente un giurista e sul tema non sarei in grado di dare le indicazioni giuste, ma quantomeno tra i requisiti per contrarre il matrimonio vi sia quello di avere un regolare permesso di soggiorno da esibire. Beh, questo alcuni sindaci l'hanno fatto, credo che il sindaco di Caravaggio, della Lega, bisogna dire, insomma, che spesso i leghisti sono, sì, si muovono soprattutto, sì, su questo fronte. Io però voglio operare, sì, ritengo che il mio dovere sia quello di operare secondo la legge, di conseguenza no, ma questo, come, certo, dire, non vado a imporre o a inventarmi delle norme locali. Il problema è che secondo la legge è obbligato a sposarsi, quindi anche questo si vedrà come andrà a finire. La richiameremo, sindaco, comunque vedremo come finirà, visto che la data si avvicina, è tra, certo, 10 giorni. Piacere, avrò modo di riferire per questa notizia anche del ricorso. Vi ringrazio di avermi ospitato. Grazie a lei, sindaco di Mondovì, Cuneo Stefano Viglione. Con lei finiamo, tra poco Giuliano Ferrara, la vicenda Vauro, la satira, l'informazione. dell'informazione Santoro, parliamo di questo con Giuliano Ferrara. Grazie a Laura Marchesi e Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e ci ritroviamo lunedì mattina.